Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Federica Teso. Un'impresa dai mille colori. È bellissimo parlare per una volta di vernici, perché spesso le persone non hanno neppure l'idea di che cosa sia e a che cosa serve una vernice. La danno molto per scontata, mentre se riflettiamo su tutto quello che è intorno a noi, noi siamo specializzati in vernici per legno, la vernice serve a rendere bello l'ambiente in cui viviamo, mobili, perché tutto quello che è legno, nel nostro caso, a renderlo bello e a proteggerlo. È innamorata del suo lavoro Federica Teso, vicepresidente di IVM Group. Ha da sempre voluto gestire un'azienda e ora guida uno dei più importanti gruppi di produzione di vernici per il legno, quella di famiglia. E del suo lavoro conosce i segreti e il valore di un prodotto quasi invisibile. Spesso si pensa alla vernice come un prodotto inquinante perché è chimico. Invece, a parte che oggi le produzioni sono arrivate a dei livelli per cui le aziende chimiche possono essere, se ovviamente ben gestite, assolutamente sicure per l'ambiente. Ma anche la vernice serve anche all'ambiente in cui uno vive, perché il legno non verniciato emana pulviscoli, può dare delle allergie, mentre la vernice lo protegge e può aiutare anche la salute dell'uomo. Ad esempio, noi abbiamo appena messo a punto una vernice che riduce del 99% i batteri presenti su una superficie. Se pensiamo a come può essere utile in un ambiente dove ad esempio si fa da mangiare, come una cucina, nelle camerette dei bambini, la vernice non viene mai vista come prodotto. Gestire l'azienda di famiglia è un destino iscritto nel DNA di Federica Teso, vicepresidente di IVM Group. L'impresa è stata fondata dal padre, Adriano Teso, e dallo zio, Massimo Milesi, quasi 40 anni fa, ed è diventata oggi uno dei più importanti produttori di vernici per legno a livello mondiale. Federica Teso ricorda gli inizi. L'azienda nasce nel secondo dopoguerra e nasce come una piccola azienda di vernici per legno, il nome era Milesi, che oggi è un marchio importante nel vernice per legno. Vengono poi create delle aziende all'estero e nel 70 viene creata la holding IVM, a cui oggi fanno capo tutte le aziende, sia l'azienda italiana che le aziende estere del gruppo. I passaggi fondamentali essenzialmente sono state la creazione o l'acquisizione delle diverse aziende all'estero e in Italia, e recentemente la costruzione di quello che è oggi il più grosso stabilimento al mondo per la produzione di vernici per legno. Abbiamo iniziato la sua costruzione più di una decina di anni fa in provincia di Pavia ed è stata una tappa fondamentale e fatta soprattutto per il futuro. Io ho sempre vissuto in una famiglia dove ho visto persone lavorare con costanza e con impegno in modo continuativo. Poi ci sono stati episodi come quello che ho descritto di acquisizioni di aziende o di creazione di nuove aziende, ma non ho mai vissuto delle grosse scosse nel mio lavoro. Non è sicuramente un settore da grandi alti e bassi, il nostro mercato è un mercato piuttosto costante. È proprio quello che mi porta dietro come patrimonio di famiglia è questo impegno che quotidianamente bisogna mettere nel proprio lavoro. Ecco la ricetta di famiglia di sempre che serve per affrontare l'attività di impresa. Essenzialmente lavorare tanto e con serietà. Questo è quello che mi hanno sempre insegnato in famiglia. Mio padre mi ha cresciuta nell'idea che niente è per sempre, che bisogna contare solamente sulle proprie forze e sul proprio lavoro, che il proprio lavoro è il più grosso patrimonio che una persona possa avere, e quindi cerco di fare il mio lavoro, con la fortuna di avere un lavoro che mi piace molto, però cerco di farlo in modo serio e con grande costanza, con grande serietà, impegnandomi molto. E credo che questa sia, sì, ci sono anche forse le persone geniali, ma le persone che hanno successo credo debbano molto alla costanza. Ma c'è anche un metodo rigoroso per coinvolgere e inserire i membri della famiglia, che non dimentica la sopravvivenza e il buon andamento dell'impresa. Tutta la famiglia siamo poi alla fine molto pochi, perché adesso in azienda ci sono Adriano Teso, presidente del gruppo della holding, e Massimo Milesi, che si è sempre occupato di ricerca e sviluppo e di produzione, quindi lui è sempre stato a capo di tutta la parte più tecnica. Io sono entrata nel gruppo 16 anni fa più o meno, e quindi la famiglia che è nel gruppo è questa. Altra cosa importante è che noi sì, siamo un'azienda a proprietà familiare, ma la gestione ha sempre voluto essere una gestione manageriale. Anche il fatto di essere entrata e di essere rimasta e di essere cresciuta è stata dovuta alle capacità che mi hanno riconosciuto all'interno dell'azienda. Non c'è mai stata l'idea di essere lì in quanto parte della famiglia o perché era dovuto in quanto, in quanto membro della famiglia, questo no. Di conseguenza, il passaggio del testimone per Federica Teso deve avere criteri aziendali molto stretti e seri, che non fuggano dal cuore dell'attività e che tramandino l'insegnamento di mantenere l'azienda ben salda nel settore di appartenenza. Io credo che i passaggi generazionali poi non siano così diversi fra le aziende familiari e aziende non familiari, nel senso che chi entra deve essere in grado di dimostrare di essere all'altezza, di essere meglio di chi lascia, e chi lascia deve avere la certezza che chi subentrerà abbia le capacità per portare avanti il business. Credo che ovviamente con buon senso e intelligenza. Credo che la cosa più importante in un passaggio generazionale di questo tipo, come in tutti i passaggi, sia nelle fasi di interregno che per forza ci sono, quindi c'è una ci sono momenti in cui c'è una doppia gestione, siano chiarissimi i ruoli. Credo che questo sia fondamentale per poter per non creare eventuali problemi. Ecco, questo me lo ricordo da piccola, quando c'erano i momenti dove tutte le aziende sembravano diversificare, fare di tutto e così. Ho vissuto sempre questa strategia di no, focalizziamoci, perché bisogna fare bene una cosa nel mondo, bisogna essere competitivi, e per essere competitivi bisogna essere fra i primi al mondo. E quindi tutto il nostro know-how, tutte le nostre i nostri investimenti vanno sul legno, sulle vernici per legno. Federica Teso entra giovanissima nel gruppo IVM, nei primi anni 90, dopo aver seguito corsi di management alla New York University e alla SDA Bocconi e dopo aver collaborato per un anno con l'Office of Economics Development of the State of New York nello staff del governatore Mario Cuomo. Oltre ai messaggi di famiglia, il bagaglio di esperienze personali che si porta dietro Federica Teso è quindi internazionale e vissuto anche in altri campi. Io, dopo essermi iscritta a Lingue, volevo fare un'esperienza di lavoro. Amavo molto il settore alberghiero, avevo 19 anni, e quindi durante l'estate ho trovato uno stage presso il Waldorf Astoria di New York. Ed è stata un'esperienza molto utile e anche molto divertente. A New York ho avuto una grandissima fortuna, che è stata quella di conoscere l'assistente di Mario Cuomo. Mario Cuomo allora era il governatore dello stato di New York, e stava aprendo un ufficio per le relazioni fra lo Stato di New York e l'Italia all'interno dell'Office of Economic Development of the State of New York. Sia lui che sua moglie sono di origine italiana e tenevano moltissimo alle relazioni con l'Italia. Mi è stato offerto di partecipare alla creazione di questo ufficio e quella è stata un'esperienza lavorativa molto, molto importante, sia per il lavoro sia perché mi ha permesso di vivere giovanissima all'estero. Ritornata in Italia, ho chiesto di mettermi alla prova poi nell'azienda di famiglia, anche perché ho sempre amato molto lavorare, più che studiare, devo dire. Sono entrata nella holding francese, estera, cui facevano capo tutte le aziende estere del gruppo, rimanendo all'estero fino a circa 6 anni fa, quando abbiamo deciso di semplificare il controllo delle società creando un'unica holding qui in Italia. Quindi sono rientrata a Milano come vicepresidente e consigliere delegato della holding. Federica Teso perciò spiega se esista un metodo per bilanciare con il lavoro le proprie passioni o se esiste uno sbilanciamento a favore del lavoro. Fare impresa e soprattutto farla ad alti livelli assorbe moltissimo tempo. Il lavoro è una parte fondamentale della mia vita e lascia pochi spazi ad altro. Sono molto importanti per me le persone a cui tengo, quindi i miei affetti. Cerco di avere tempo per le persone a cui voglio bene. A parte questo, il tempo poi è molto limitato, quindi so, ma sono stata cresciuta con questa idea che poi nella vita bisogna un po' scegliere quello che si vuole fare e poche cose fatte bene, non si può poi voler fare di tutto e di più, bisogna concentrarsi se si vuole fare bene qualcosa. Io mio nonno l'ho visto poco perché è morto che io ero ancora piccola e mio padre l'ho sempre visto lavorare. Essenzialmente mio padre l'ho visto lavorare e occuparsi di politica, che è la sua grossa passione al di là del lavoro. Non ho vissuto mai in una famiglia particolarmente o vacanziera o con uscite o con assolutamente. Amo molto il mio lavoro e credo che questo sia essenziale. Il fatto di amare il proprio lavoro aiuta molto a vivere bene, perché non c'è uno stacco fra la vita professionale e la vita personale. Una persona è tutt'uno, non c'è una persona che lavora, una persona che vive la vita privata. Un percorso ancora in crescita, quello di IWM, che ha visto l'impresa espandersi in diversi mercati europei, con la creazione di Milesi Vernis in Francia, di Industrias Chimicas IWM in Spagna e di Milesi Hellas in Grecia. Poi c'è stato l'acquisto di Ilva Polimeri e della tedesca Chroma Lake, un'azienda specializzata in vernici per legno. Nel 2007 viene creata infine anche IWM Chemicals in Polonia. Oggi il gruppo comprende 6 aziende controllate e 6 partecipate, con un fatturato complessivo di oltre 360 milioni di euro, una produzione di circa 123.000 tonnellate di vernice all'anno e una distribuzione che tocca 70 paesi. Inoltre è stato di recente completato un processo di unificazione che ha portato alla nascita, nel 2007 in Italia, di IWM Chemicals, originata dalla fusione di 3 fra le principali imprese europee specializzate nella produzione di vernici per legno: Milesi, Ilva Polimeri e Intercoating, già appartenenti a IWM. Ecco come una multinazionale con più di 1.000 persone che vi lavorano vive e sorpassa il momento di crisi, secondo Federica Teso. Durante questi anni più di crisi del settore, noi abbiamo continuato ad investire. Non solo abbiamo completato lo stabilimento di Parona, abbiamo investito nell'assunzione di nuovi ricercatori. Stiamo guardando al futuro. Ma il baricentro delle attività di gruppo resta l'Italia, anche e soprattutto legato al Salone del Mobile di Milano. Innanzitutto nel nostro settore l'Italia è uno dei paesi più importanti, perché noi siamo cresciuti con il design, con la grande industria del mobile, che è ancora uno dei punti di forza del nostro paese ed è riconosciuto in tutto il mondo proprio perché noi abbiamo potuto sviluppare prodotti esteticamente anche molto superiori a quelli che hanno realizzato in altri paesi grazie alla collaborazione con i più grossi designer, architetti e artigiani anche dell'industria del mobile. Quando abbiamo cercato la sede del nuovo stabilimento di Parona, ci siamo anche guardati intorno nel resto d'Europa. Alla fine però siamo italiani, l'Italia ha dei grossi problemi strutturali, però in fondo è un paese dove si può vivere bene, si può stare bene, dove ci sono delle grosse competenze, parlo per il nostro settore, e quindi non abbiamo mai fatto la scelta di delocalizzare le produzioni. In azienda si lavora quotidianamente alla messa a punto e al miglioramento dei prodotti. Oggi, come spiega Federica Teso, il lavoro di ricerca è basato sullo sviluppo di vernici che abbiano un basso contenuto di solventi e che quindi non danneggino l'ambiente e anche la salute, e in questo siano vincenti rispetto a quelle che barattano la competizione sul mercato con la nocività. Noi lavoriamo costantemente alla ricerca di prodotti vernicianti che aiutino sempre di più a vivere meglio, quindi alla salute dell'ambiente in cui si vive. In particolare andiamo verso vernici con emissioni di solvente zero. Significa che appunto il film di vernice rimane completamente sulla superficie verniciata, non c'è solvente nell'aria. E questo è da tanti anni che stiamo lavorando su questi prodotti con costanti miglioramenti. Non è stata una svolta iniziata in un momento preciso, certamente c'è un'attenzione mondiale a tutto quello che sono questi argomenti e quindi anche il nostro settore segue questa tendenza. In più c'è un'attenzione del pubblico sempre maggiore verso quello che è lo star bene, la salute dell'individuo. La natura è però sempre quella di imprenditori artigiani, che sanno anche competere su un ottimo rapporto qualità-prezzo. Noi vendiamo qualcosa di molto concreto, non è un settore con grandissimi margini, quindi noi lavoriamo costantemente per mettere appunto i prodotti migliori ai costi più bassi. È proprio una costante ricerca di un prodotto che poi non incide tanto su quella che è la realizzazione finale di un mobile, di un parquet, di un qualsiasi manufatto. Si sta attenti al minimo costo in più, a vendere la qualità. Parliamo di centesimi. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.